Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che stava a vegliar. A mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capoposto. O sentinella, torna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Quando fui stato nella mia tenda, udì rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolare, sentivo i sassi a rotolare. Il capitan della compagnia e l'è ferito e sta per morire. Suoi alpini che manda dire che non ha scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Cosa comanda, signor capitano? Che noi adesso siamo arrivati, ed io comando che il mio corpo in cinque pezzi si il primo pezzo alla mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma che si ricordi del suo figlio. Quarto pezzo alla mia bella. lucido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. C'era bisogno andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò: non passa lo straniero.